La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. L'ascoltatrice Roberta ha scritto questa lettera. Abito nel Lazio, abbastanza lontana dall'epicentro di questo terribile terremoto in Emilia-Romagna, ma ho paura lo stesso. Da quando è successo ho attraversato due fasi. La prima di compassione per la tragedia che le popolazioni stavano attraversando, per il terrore, per i morti, per la inadeguatezza dei nostri governi. Clamorose le promesse fatte agli abruzzesi e l'abbandono in cui sono stati lasciati. Ho mandato dei soldi, mio figlio è andato ad aiutare. Ma poi è venuta un'altra fase. Sto attenta a ogni vibrazione. Quando passa l'autobus da me trema tutta la casa. E compio quotidiani atti di vigliaccheria. Quando vado a letto mi porto la torcia elettrica e il cellulare. E mi immagino sempre il soffitto che casca in testa. Ero in Umbria da una parente 3 anni fa, quando la terra cominciò a tremare. Scappammo fuori prima che crollasse il tetto. E fu tutto più facile perché venne di giorno. Da allora ho sempre terrore. Tutta l'Italia è zona sismica. Con la mia paura, io non vorrei mancare di rispetto a quelli che stanno soffrendo veramente, quelli che piangono i lutti, ma non posso fare a meno di chiedermi se toccherà anche a me. Ho paura di essere un mostro di egoismo. Roberta. Ho paura che lo siamo tutti, Roberta. E non ti preoccupare, perché abbiamo tutti una paura fregata. Quando la terra trema e ci sentiamo tutti come siamo, esposti agli scherzi della natura. Quando ci vediamo questi coraggiosi emiliani in televisione, il secondo pensiero, anche dei più altruisti, è il tuo stesso. E se toccasse a me? La cosa più sincera, non certo rassicurante, l'ha detta Antonio Pennacchi. Era ospite alla Zanzara. Alla domanda su cosa pensasse di chi prevedeva i terremoti, ha risposto: «Beh, li prevedo pure io. Cioè, in che senso? Perché prima o poi arrivano». E ha detto: «Per forza, stiamo su una palla di fuoco. Nessuno è garantito». Sai, l'umanità intera ha memoria di tali cataclismi e che ce ne sono tracce in tutti i grandi poemi del mondo, dal diluvio della Bibbia ai miti greci. Ti leggo un brano delle Metamorfosi di Ovidio, dove è descritto con grande potenza il diluvio causato dagli dèi quando decidono di liberare il mondo dalla presenza umana. La traduzione è di Piero Bernardini Mazzolla. Parla delle tre età della Terra. Fiorì per prima l'età dell'oro. Senza bisogno di giustizieri, senza bisogno di leggi, si onoravano la lealtà e la rettitudine. Non c'erano pene a incutere paura. E poi fiumi di latte scorrevano, fiumi di nettare. Giù, lungo il verde leccio, stillava il miele biondo. E questa è l'età dell'oro. Viene poi l'età dell'argento. E terza viene l'età del bronzo. Seguì per terza l'età del bronzo. D'indole più crudele e più pronta a usare le orribili armi, scellerata però non ancora. L'ultima fu quella del ferro. D'improvviso, in quell'epoca di tempra peggiore, irruppe ogni impietà. Fuggirono il pudore e la sincerità e la lealtà, e al loro posto subentrarono le frodi e gli inganni e la violenza e il gusto sciagurato di possedere. Sul suolo, prima comune a tutti, come la luce del sole e l'aria, con cura l'agrimensore tracciò lunghi confini. E non soltanto. Si pretendeva che la terra, nella sua ricchezza, desse messi e alimenti, ma si discese nelle sue viscere e ci si mise a scavare i tesori, stimolo al male. Così il ferro pernicioso e l'oro, più pernicioso del ferro, furono portati alla luce. Ed ecco compare la guerra. Di rapina si vive. L'ospite non può fidarsi dell'ospite, né il suocero del genero, e anche i fratelli di rado si risparmiano. Trama il marito la morte della moglie, lei quella del marito. Il figlio fa i conti sugli anni del padre, prima del tempo. Come sempre viene un momento nelle mitologie in cui gli dèi si disgustano della loro creatura, si disgustano dell'uomo e mandano le catastrofi. E quindi anche Giove, figlio di Saturno, decide in un consesso degli dèi, decidono di annientare la razza umana. Anche perché hanno paura che vogliono prendere il loro posto. Mai fu più in ansia di ora per il dominio del mondo. Devo distruggere la razza umana dappertutto. Questa piaga incurabile deve essere estirpata con la spada, perché non guasti la parte sana. Quindi gli dèi fremono di sdegno e cominciano a studiare come sterminare gli uomini. Però la distruzione del genere umano addolora tutti e tutti vogliono sapere che aspetto avrà la terra una volta priva di uomini, chi offrirà incenso sugli altari e se per caso egli pensi di lasciare il mondo in balia delle bestie feroci. Ma il loro sovrano li invita a non temere, penserà lui a tutto, promettendo una stirpe diversa dalla prima, una stirpe di origine prodigiosa. E già si accingeva Giove a spargere fulmini su tutta la terra, ma gli venne il timore che l'etere sacro potesse incendiarsi e che potesse ardere il lungo asse del mondo. Allora decide di distruggere il genere umano con l'acqua, rovesciando pioggia da tutto il cielo. E qui c'è la descrizione del diluvio, quella che riguarda te, me, Roberta e tutti gli esseri viventi. E Giove si reca da Nettuno, dio del mare. Nettuno, il suo azzurro fratello, convoca i fiumi di cui è il signore e gli ordina di invadere tutta la terra. Lui, il dio, percuote la terra col suo tridente e la terra trema e le scosse spianano la via alle acque. Traboccando, i fiumi si gettano nell'aperta campagna e travolgono sementi e piante, e greggi e uomini e abitazioni, e portano via cappelle e sacri arredi. Anche se qualche casa rimane e riesce a reggere tanta furia, le acque la superano e sommergono il tetto, e le torri non si vedono più, premute sotto i gorghi. E ormai non c'è più differenza tra mare e terraferma. Tutto è ormai mare, un mare senza sponde. Uno, parla degli uomini, si ritira sopra un'altura, un altro, su una barca, rema sul punto dove poco prima arava. Quello naviga sopra i campi di grano o sopra il tetto della villa sommersa. Questo afferra un pesce in cima a un olmo. Dove prima brucavano l'erba, le gracili capre, ora depongono il loro corpo le tozze foche. Le nereidi contemplano stupite sott'acqua i boschi e le città con le case, e i delfini si aggirano per le selve e urtano contro gli alti rami. Nuota il lupo tra le pecore, la corrente trascina i leoni, trascina le tigri, e al cinghiale travolto a nulla più serve la forza fulminea, a nulla più servono al cervo le zampe veloci. E dopo aver cercato una terra su cui posarsi, stancatesi le ali, l'uccello sperso precipita in mare. I flutti, cosa mai vista, si frangono contro le vette dei monti. Puoi inviare il tuo messaggio nella bottiglia alla mail laguardiana@radio24.it. La Guardiana del Faro. Ho visto in televisione su Italia 1 una trasmissione di Stella Pende, Confessione Reporter, che va in onda purtroppo a 00:30, secondo una mentalità che è comune a tutte le reti, ovvero sia che le cose fastidiose, inutili e corruttrici si fanno di giorno, le cose belle tutte la notte, ce lo dobbiamo guadagnare. E Stella Pende non è solo una coraggiosa reporter e scrittrice, ma è anche tra le più stimate cagnare d'Europa, ovvero raccoglitrice degli animali più disparati, che un destino provvidenziale per gli animali le fa trovare sulla strada. Ed è anche una donna eternamente giovane, alta, bella, pare per certe pozioni che le faceva prendere da bambina il nonno stregone, cioè lo scienziato, il professor Pende. Lei è cresciuta insieme a sua sorella con una scimpanzé che aveva la sua culla, le vestivano anche uguali e quando arrivavano negli alberghi con queste tre bambine e una era una scimmia, c'era qualche trambusto. Stella e gli animali sono una sola cosa, però di solito chi ama gli animali odia gli uomini. Invece lei è portata anche per l'essere umano, tanto che rischia la pelle costantemente. Ma io mi attengo al Vangelo, li riconoscerete dalle loro azioni. E le sue azioni sono buone, sono utili e molto ben fatte. Ora questa nuova trasmissione, che come dicevo va in onda su Italia 1 la domenica a mezzanotte, Confessione Reporter, che è anche il titolo di un suo libro tra poco pubblicato, è una cosa importante, perché enunzia un programma all'inizio e poi lo mantiene. Dare voce ai matti, ai carcerati, alle donne e via dicendo. C'era una puntata sulla condizione delle donne in Afghanistan. Donne come cose, vendute dai padri, schiavizzate dai mariti, torturate senza che una legge, che pure c'è, intervenga e punisca gli aguzzini e gli assassini. C'è una ragazza che si è sposata per forza e dice: «Mi hanno messo una coroncina in testa, era quella del mio martirio». Un'altra, venduta a un vecchio a 9 anni, che le spengeva le cicche addosso. E però quello che stupisce in questo reportage di Stella è la forza che hanno queste donne e che capacità. Te li ritrovi poi agguerrite, bellissime, che a rischio della vita ricoprono cariche importanti, molto minacciate, perseguitate, ma vanno avanti. Una è direttrice della Commissione Anticorruzione, Fatua è parlamentare della Commissione Giustizia. Adesso posso chiedere alla Capitaneria di Porto di mettermi in contatto con Stella Pende? Capitaneria di Porto, come richiesto, la giornalista Stella Pende è in collegamento. Barbara Alberti è autorizzata a parlarci. Eccomi. Ciao Stella, ci dici qualcosa di su questa esperienza drammatica e anche molto fervida che hai avuto, cioè il tuo contatto con le donne afghane? Io credo che la condizione femminile sia lo specchio di molti paesi. Non parliamo poi dell'Afghanistan, no? Dei paesi arabi assolutamente. L'Afghanistan è veramente, come dire, no? Se tu vai dentro alle storie delle donne, scopri cos'è il paese. Quindi io ho voluto fare quello. E ho incontrato delle bambine torturate, vendute a dei vecchi bavosi, che però non si sono arrese, hanno lottato, si sono buttate in mezzo alla strada, sono state messe in carcere, non fa niente, sono uscite dal carcere, hanno cercato chi poteva aiutarle, quindi non si arrendono. Poi diventano, oggi, quando ci saranno le elezioni, quella che preoccupa di più il noto Karzai è proprio una donna che si chiama Katia Fusi e sarà la sua rivale nelle elezioni. Quindi immaginati un paese come l'Afghanistan che ha una donna come rivale del presidente, quindi vuol dire che queste donne soffrono, ma capitalizzano il loro dolore e ce la fanno, secondo me. Quindi ti trovi in questo paese così meraviglioso e a dispetto di tutti, perché poi sono anche dei tagliagole questi qua, parecchi, poi ci sono anche delle persone straordinarie, per carità, ho conosciuto delle persone straordinarie in Afghanistan, uomini e donne, insomma il popolo è, come dire, leggermente violento, è anche un popolo martirizzato da 40 anni, è anche un popolo che uso alla violenza, perché devono difendersi. Certo, capisci? Sono pastori tra le rocce. Guerra, Barbara, solo guerra, solo guerra. E poi anche questa cosa del burka, cioè dobbiamo anche sfatare tutti questi luoghi comuni. Certo, il burka è una gabbia di ferro, noi non resisteremo un attimo. Però loro, beh, noi ci facciamo le plastiche, abbiamo questa armatura cadaverica intorno al nostro corpo, è drammaticissimo apprendere queste condizioni di queste donne. Devo dire che nel nostro piccolo noi abbiamo una morta ogni 2 giorni in un paese che stimiamo massimamente civile. E adesso pensa a Stella, che ho sentito la trasmissione di Oscar Giannino qui su Radio 24, facevano sentire queste canzoncine, queste filastrocche che faranno imparare nelle scuole per pagare le tasse. Cioè stanno educando, stanno invitando anche i bambini a arruolare, i bambini a fare la spia se qualcuno non gli dà lo scontrino. Allora sicuramente un'educazione civica, però ma non è che è venuto in mente a nessuno di fare un'educazione capillare ai bambini da quando sono all'asilo sul rispetto reciproco tra i sessi e sul fatto di non considerare, come mi ha scritto una lettrice, una bambina un premio? Posso dirti, noi in una puntata abbiamo un brandello di questo documentario meraviglioso, meraviglioso, fatto da Elisabetta Francia, che è una brava regista e che ha capito qual è la chiave della storia. Perché io l'ho detto, è inutile piangere davanti a una bara. Cerchiamo di capire da dove viene, cerchiamo di capire che cosa scatta, quindi chi dobbiamo esplorare? Qual è il malessere che dobbiamo capire? Quello di lui. E infatti il suo documentario si chiama Parla con lui, e lei ha fatto una cosa solo sugli uomini, solo sugli offender, dove cerca di capire che cosa scatta nel cervello, nell'anima e nelle mani di questi, cioè di questi anche disgraziati, malesserati, perché poi non esiste l'identikit dell'offender, perché può essere un uomo che è malato di mente, come può essere un uomo normalissimo che improvvisamente viene colto dal virus della violenza, della gelosia, spesso sono i lasciati. Quindi lei ha fatto un lavoro immenso chiedendo di capire prima, di non arrivare e di non piangere sul sangue delle donne versato, capisci? Di capire prima, di aprire dei centri che si occupino di questi uomini, perché anche questi uomini hanno diritto, quando stanno male, di andare da qualcuno e di parlare con qualcuno, invece vengono rifiutati regolarmente perché sono i mostri, sono gli orchi. E io ho intervistato anche questo psichiatra che si chiama Paolo Giulini, che lavora qui in carcere a San Vittore, che ha dei gruppi d'ascolto il lunedì pomeriggio in un posto dove io sono andata, e dove lui chiede il permesso in carcere e fa venire questi uomini che si offrono loro volontari per fare questi gruppi di ascolto, insomma, fare violentatori anonimi, non so come dire, capisci? E molti di loro escono dal tunnel, se ascoltati, se capiti. È una cosa molto importante questa, vedere le cose anche dalla parte di lui, senza nessun desiderio di connivenza, senza nessun desiderio di complicità, ma per cercare di aiutare le donne. Volevo parlarti anche del documentario che tu hai mostrato, di Moni Ovadia, sui Rom, con i quali lui ha formato un complesso dicendo sono ebreo, quindi sono anche rom, affinità di nomadismo e di amore per la musica. Ed è interessante perché li fa vedere, li fa parlare, li fa esistere, perché quando parliamo di rom, anche con le migliori intenzioni, parliamo sempre di rom. Sono come i pelle rossa nei film nei film western fino agli anni 70. Sono i pelle rossa, cioè sono i rom senza volto. Quando vedi un volto di rom è sempre sbattuto sul giornale perché ha fatto qualche crimine, ma non li vedi mai in condizioni, diciamo, umane. E mi è molto impressionato vedere nella tua trasmissione quando arrivano le camionette, li schedano tutti, li spaventano sotto i nostri occhi, perché abbiamo assunto una mentalità neonazista poco a poco. E Moni Ovadia li intervista tutti di spalle, se no sono tutti zingari che lavorano, se no li licenziano. Certo. E nessuno può dichiarare di essere rom, che poi tra l'altro vuol dire uomo. E c'è un vecchio che ricorda un raid consimile da parte dei fascisti al tempo delle leggi razziali. Ho fatto molte inchieste sui rom per Panorama, sono andata in Romania per raccontare il viaggio dei bambini che poi venivano spediti qui. Insomma, ci sono molti luoghi comuni che vanno sfatati, ma anche molte verità, perché io poi dico a Moni, e guarda che le carceri sono piene di rom, ma piene, cioè se tu vai al carcere minorile di Milano trovi solo ragazzine che rubano, però perché rubano? Il discorso che si faceva sui violentatori, perché rubano? Perché li mettono, probabilmente perché fa parte anche della loro cultura, quando sono molto poveri. Io ho assistito a due sbaraccamenti di campi rom, perché ci sono andata a vederli, e io non me li dimenticherò mai. Cioè, io ho visto guerre, ho visto pestilenze, ho visto terremoti, credimi che vedere della gente cacciata dall'unico posto che potevano occupare in maniera così violenta è orribile. E se a questo popolo viene dato, viene concesso il lusso dello studio, della musica che loro adorano, perché se gli vengono concessi tutti questi diritti che noi abbiamo tutti i giorni e sbuffiamo, perché i nostri figli vanno a scuola e sbuffano, possono diventare come qualunque dei nostri ragazzi. Non parliamo delle badanti, perché io per esempio sono a conoscenza, perché le ho intervistate, di due ragazze che fanno le badanti e che non possono dire alla loro padrona che sono rom, perché sennò perdo immediatamente il posto. Cioè, sono degli appestati. Che l'Italia sia diventata una società multietnica vuol dire che è diventata una società spaventosamente razzista, in cui ci siamo proprio abituati ad un livello di idiozia, di ragionamento veramente suicida. Grazie Stella. Grazie a te. Ciao, ciao, ciao. Puoi inviare il tuo messaggio nella bottiglia alla mail laguardiana@radio24.it. La guardiana del faro. L'angolo del cafone. L'anno scorso stavo portando a casa mia figlia, dopo che aveva fatto proprio la patente di scuola guida, lei tutta contenta, al telefonino stava mandando i messaggi ai suoi amici, e ad uno stop sono stata tamponata da un grosso SUV. Ne è scesa una signora tutta elegante, con in mano un telefonino di ultima generazione, e mi ha detto che non poteva assolutamente fermarsi a fare la constatazione. E guardando mia figlia, che riteneva insomma un po' più malleabile di me, le ha detto: prendi il numero di telefono, ti do il numero di telefono. E io ho insistito dicendo: no, scusi, dobbiamo scambiarci altri tipi di punti di riferimento, no? E lei allora, quando ha capito che io non ci stavo, è salita sul SUV e, se non mi fossi scansata, mi avrebbe anche travolto. La commessa di un grande supermercato si rivolge ad un anziano e, un po' scocciata, gli chiede: ah, oh, ce l'hai la scheda dei punti? Al che l'anziano non ha sentito e ripete: ah, oh, t'ho detto, ce l'hai la tessera? La stessa cosa ha fatto con me, dicendomi: che ce l'hai la tessera? Al che ho detto: forse lei lo conosce il signore, ma io e lei non ci siamo mai conosciute, mai viste e mai mangiato insieme, per cui io le sto dando del lei e mi sembra educato fare altrettanto. Mi ha guardato storta, al che mi ha detto: arrivederci signora, quando ci siamo salutate. Per l'angolo del cafone, io contesterei il termine cafone in questa fattispecie. Si ricordi di qualche scrittura abruzzese? Grazie. Le altre voci che avete sentito si commentano da sole, ma a questa telefonata vorrei rispondere. Io me l'aspettavo, o una lettera o un messaggio di questo genere, tanto che, annunciando l'angolo del cafone, volevo fare una premessa linguistica sulla parola cafone. Poi mi è sembrato pedante, anche perché chi segue non per caso questa trasmissione sarebbe stata ovvia. Ma visto che almeno per uno non lo è, rispondo: tu pensi al significato originale e probabilmente ai cafoni di Silone in Fontamara, tu pensi a queste vittime dell'autorità, sempre, in quel caso, del potere e della corruzione fascista. Tu pensi a quella terribile definizione dei contadini rispetto ai quali il quarto stato, gli affamati della rivoluzione francese, erano dei privilegiati. Ecco, in Fontamara esattamente questo dice: in capo a tutti c'è Dio, padrone del cielo. Questo ognuno lo sa. Poi viene il principe di Torlonia, padrone della terra. Poi vengono le guardie del principe. Poi vengono i cani delle guardie del principe. Poi nulla. Poi ancora nulla. Poi vengono i cafoni e si può dire che è finito. Ma io penso anche ad un altro libro di oggi, La guerra dei cafoni, di uno scrittore giovane di altissima lingua e ispirazione, tragico e umoristico, che è Carlo D'Amicis. In questo romanzo D'Amicis trasforma i cafoni di Silone in ragazzini degli anni 70 sull'orlo di un mondo che si trasforma, e i cafoni, i piccoli cafoni, sono in lotta con i piccoli benestanti che vengono a villeggiare l'estate a Torrematta, sulle coste del Salento. Amo talmente questo libro che ne abbiamo tratto una sceneggiatura da cui sarà fatto un film. Quindi non mi sfugge il senso originario della parola cafone, né ho inteso mancare di rispetto. Però devi ammettere che nell'uso è diventata una parola che in tutta Italia significa una cosa sola: il maleducato, lo scostumato, il prevaricatore, dettaglio importante, fiero di esserlo, il prepotente pretenzioso. Ed è il tipico caso in cui l'accezione comune cancella il significato originale. Penso, non so, al titolo Cafona di Roberto D'Agostino, Specchio dei tempi. Quindi ti prego, lasciaci usare questo nome senza, se possibile, farci la lezione. Che di lezioni, Dio sa se ne ho bisogno, su tantissimi argomenti. Ma credo non su questo. E questo è un episodio che ci viene raccontato da Paolo Sanzoni per lettera. Si trovava in un autogrill a una pompa di benzina, auto di grossa cilindrata, si apre il finestrino e un ragazzino di 7-8 anni butta fuori un grosso pacco di patatine vuoto. Io lo raccolgo, busso al finestrino, lo porgo al padre e gli dico che il figlio aveva, probabilmente per sbaglio, gettato fuori. Il padre, senza degnarmi di uno sguardo, lo prende, richiude il finestrino, lo porge al figlio e comincia a riempirlo di schiaffi. Era palese, dall'incredulità del figlio che continuava a ripetere il perché di quegli schiaffi, il padre, vero colpevole, non gli avesse mai detto di non farlo. Paolo. Grazie Paolo per averci raccontato questa esemplare scena di violenza spostata su un altro oggetto. La violenza del padre si è riversata sul bambino. Lei aveva dei giusti pensieri negativi verso il padre e il padre le avrebbe volentieri tirato un cazzotto in faccia per avere subito un giusto rimprovero. E quindi, non potendo prendere cazzotti lei, l'unico che ha beccato gli schiaffi è il debole, il bambino. I bambini sono sempre la pattumiera dei nostri malumori, dei nostri peccati, delle nostre nevrosi. Luciano scrive: la ringrazio per le sue parole sui romani. Ogni volta che mio malgrado metto il naso fuori casa, vengo anch'io investito dalla brutale cattiveria romana. Ho trovato conforto nelle sue parole. Spero sia possibile un'altra umanità, in un altro luogo, in un altro tempo. Firmato Luciano da Venia. Buongiorno, il ragionamento su Roma mi sembra un ragionamento da Radio Padania, complimenti. Senta, Radio Padania sarà lei. Le rispondo, ma con predica. Se voleva insultarmi, ci è riuscito, perché è una cosa che mi offende nel profondo, anche se è così surreale che fa pure ridere. Sa, caro ascoltatore, è lo schema che ci rovina, è la cultura automatizzata di oggi, per cui appena sentiamo una cosa la dobbiamo incasellare, apparentare ad un'altra cosa e ci rassicuriamo. Lei deve essere uno che non ha mai ascoltato questa trasmissione, altrimenti saprebbe cos'è per me il Sud. Ma è proprio il suo parere che mi interessa, perché la radio non può contare solo sugli affezionati. La radio è soprattutto per chi l'ascolta per caso, per chi coglie una parola, per magari con un orecchio solo, chiudendo una valigia, attraversando una strada nel traffico. Perciò dimentico l'offesa e le risponderò in maniera esauriente. Le parlerò lunghissimamente di Roma, ma non oggi. Oggi le dirò soltanto poche cose, e non dei luoghi comuni e sulla città, ma dei fatti. Tenga presente però che io non sono una guida turistica, è la percezione soggettiva di uno scrittore, è una visione, è la visione di un visionario. Però lei sente raccontare episodi di maleducazione a Roma e pensa: Roma, Sud, Sud, Lega, Lega, Radio Padania. La prego, lasci la mente più libera e ascolti veramente ciò che sente. Non faccia difese e offese a priori. Io abito in questa città da quando facevo la prima liceo e le dico che, senza togliere che ci sono dei romani cordialissimi, deliziosi e pieni di umanità, il tono della città è violento e cinico. Sono stata per 4 volte, mi sono rotta la gamba destra e ho camminato a lungo con le stampelle. Le posso assicurare che quando vedono una vecchia sulle strisce con le stampelle, l'automobilista a Roma accelera. Non è che si ferma altro, accelera. E c'è molta violenza contro le donne, violenza spicciola. Per la strada ti offendono sempre, da giovane e da vecchia. Da ragazzina, mi ricordo, andavo in prima liceo e: sei carina, stai fiorendo, ti piacciono i complimenti per la strada, si gradiscono pure i fischi. Ebbene, mi dicevano delle cose così brutte e grossolane che non erano elogi, erano insulti. Non vogliono dirti che sei bella, vogliono offendere la tua bellezza. A Napoli, per esempio, in questa città dove, nonostante la camorra, nonostante sia una città a pezzi, permangono brandelli di una civiltà incancellabile. Io mi ricordo Napoli, passavo e ti dicevano: io per voi farei una pazzia. Ecco, e qui c'è una differenza di cultura fra due città. Sarà la colpa dei preti, sarà il fatto che è la sede del potere vaticano, sarà il fatto che è la sede della politica, tutte cose che poi permeano una città. Sarà la discendenza da quelli che si divertivano a far mangiare i cristiani al circo, i cristiani da Leone sghignazzavano, non lo so cos'è, però devo dirle, non sei tranquillo. Ricordo un altro episodio della mia gioventù, non di questa Roma degradata come tutto il mondo, ma è una cosa di decenni e decenni fa. L'Università La Sapienza di Roma è vicinissima al cimitero, al Verano. Io aspettavo l'autobus davanti all'università e dietro c'era lo sfondo del cimitero e c'era una vecchina piccola piccola che ti veniva voglia di metterla in tasca, e un giovanottone enorme la guarda e le dice così gratuitamente, tanto per farle del male: a nonne, te stai a scegliere marmetto, ovvero sia, ti stai a scegliere il marmo per la tua tomba. Ecco, allora lì rimpiangi di non essere Hulk e di non potergli dare un cazzotto in bocca. E così anche tu entri nel grande calderone della cafonaggine romana, che è sempre l'anticamera della violenza. Però parlerò più a lungo di questo e spero che lei ci ascolti e potrò darle altri argomenti. Oh, poi c'è un episodio che riguarda me. Giorni fa sono intervenuta al telefono in una trasmissione televisiva, Rai Sport, sul terzo canale della Rai. Io non avevo un televisore davanti e sentivo solo delle voci. L'argomento era il sentimento verso il tricolore. E io ho detto le cose semplici che penso, sul fatto che sono cresciuta nel dopoguerra e non avevo nessuna simpatia per una bandiera che grondava di retorica, fresca di essere stata usata dal nazionalismo fascista e che significava oppressione, prepotenza, colonialismo, complicità col nazismo, che era stata sventolata in una guerra che era costata 50 milioni di morti e si era coperta di vergogna. E da giovane al tricolore preferivo la bandiera rossa, che era internazionale, che era una speranza. Ho cominciato ad avere dei sentimenti per la bandiera italiana dopo che la Lega ha cominciato a vilipenderla sistematicamente e sfacciatamente, un partito che sedeva nel Parlamento, che contava dei ministri. Questa offesa costante, truce, intollerabile e impunita. 2 anni fa, sull'Unità, la scrittrice Chiara Valerio aveva scritto un bell'articolo dicendo: riappropriamoci noi della sinistra del tricolore, perché lo dobbiamo lasciare alla destra? È un simbolo che ci riguarda tutti. E comunque mi sono vergognata a volte della bandiera italiana durante l'aggressione all'ex Jugoslavia, quando scoppia questa cosiddetta guerra, questa aggressione, e io prima avevo un nome e cognome come tanti, rispondevo delle mie azioni, adesso ero diventata gli italiani, quelli che si erano uniti al massacro. E la bandiera è una promessa ed è un dovere. Poi c'è stato il berlusconismo, adesso abbiamo questa strage dei poveri, operata da un governo che sembra avere davanti delle unità inanimate e non dei cittadini. Quindi la bandiera è una promessa che dovrebbe essere mantenuta, la bandiera se lo deve meritare il rispetto dei cittadini. E chiama ognuno di noi a far sì che non ci vergogniamo del simbolo del nostro paese. E dall'altra parte, torniamo appunto alla trasmissione televisiva, mentre dicevo queste cose, c'era un professore di cui non ho capito il nome e francamente non mi interessa neanche capirlo, il quale parte con una glorificazione a priori della bandiera italiana, della gloria italiana, parte dagli Etruschi, secondo lui anche gli Etruschi erano italiani, l'Italia ha 3.000 anni, e cita delle battaglie dignitose, le uniche che abbiamo fatto, quelle del Risorgimento. Io dico sì, però ha sventolato anche nelle stragi in Etiopia, nello sterminio della popolazione, vedi il poderoso lavoro di Angelo Del Boca sulle atrocità italiane, l'uso di armi chimiche come l'iprite, i campi di concentramento, le deportazioni, gli omicidi gratuiti e via dicendo. E vedere anche il documentario che ha fatto 2 anni fa Luca Guadagnino sull'argomento. Il professore continua con questo sproloquio e mi sembra da lontano, perché non vedevo, io non ero davanti al televisore, non vedevo, sentivo solo delle voci, mi sembra da lontano a un certo punto che i conduttori annuncino la pubblicità molto repentinamente. Poi per puro caso ho saputo che questo signore aveva tirato giù una bestemmia, gridando: il fascismo è durato solo 20 anni, ma come, in una storia così lunga, appunto, che secondo lui comincia dagli Etruschi, che ci annettiamo, no? Non sappiamo neanche che lingua parlavano, ma ce li annettiamo. Sì, però è durato 20 anni, ma ha fatto 50 milioni di morti e tanti altri ne ha sacrificati. E ha ancora dei seguaci come questo signore. E questo trascende la cafonaggine ed entra nel campo della violenza. E con quella bestemmia il cosiddetto professore ha dimostrato l'appartenenza alle idee politiche reazionarie e violente che stava manifestando. Però devo dire, il fatto di non essermene accorta mi dà l'impressione di poter sorvolare, come dice Claudio Ciaravolo, sulla miseria di quel giorno. E poi, adesso che si usa essere bipartisan, quanto ai nostalgici del fascismo, io citerò una frase immortale di Aldo Busi, il quale disse: per me i fascisti devono tornare nelle fogne. Come on, let's set it off. Come on, let's set it off. La guardiana del faro. Charmanca, charmanca. Oh, e qui ho avuto 2 lettere. Una firmata Giulia, un'altra firmata Hilda, ci mandano delle lettere che non spedirebbero mai alle persone cui sono dirette. Giulia ha 56 anni e dice: sono 28 anni che sta con un uomo, la metà esatta della mia vita e gli anni del nostro rapporto. A volte non è stato facile, ho dovuto accettare situazioni che non sempre avrei scelto, perché ci tenevo al mio posto. Era vitale. Al mio posto, accanto a te, si rivolge l'uomo che ama. Un rapporto senza contratto, da conquistarmi giorno dopo giorno. 28 anni di precariato sentimentale. Senza mai rilassarsi, sempre con la speranza che a te, mio affascinante datore d'amore, piacesse ancora gustare la mia presenza part-time nella tua casa. Mi ci sono abituata, tanto che mi sembra la regola, senza il progetto di un vero cambiamento. Ma da un po' di tempo, nel profondo, lavoro in me un desiderio che mi assorbe in fantasie che penso come fossero realtà. Fantasie emozionanti, solo mie, che non ti sfiorano, che non conosci, che non capisci. Lì per lì ho pensato a una lettera di dimissioni. Poi ho deciso di dirti che ti desidero in modo diverso. In tutti questi anni ti ho amato, e sai quanto, senza mai neppure sussurrare la parola voglio. Si insegna ai bambini a non usarla mai, che l'erba voglio, si sa, non cresce nemmeno nel giardino del re. Ma ora, in quello della regina, è cresciuta. E io la innaffio tutti i giorni, ed è bella, fresca, verde e rigogliosa. E mi piace tanto. Padrone mio, amore mio, voglio dimettermi da questo limbo. Voglio un guizzo, un'emozione nuova. Voglio te, ancor di più, per sempre mio. Ammanettato, legato, incatenato. Voglio essere la tua palla al piede, la tua prigione, insomma. Voglio diventare una vera moglie. Sì, voglio tutte queste cose orribili. Voglio un anello al dito, diverso da quelli meravigliosi che mi hai regalato. Belli, colorati di pietre preziose, ma senza il significato di quel semplice cerchietto, l'unico che ora desidero. Mi dimetto dalla parola compagna. Davvero non l'ho mai sopportata, la detesto. L'ho sempre pronunciata con le labbra serrate, e tanto più da quella di fidanzata. Ma l'hai mai visto un fidanzamento tanto lungo e infruttuoso? Non c'è fidanzamento senza promessa. Mi è sempre piaciuto essere la tua amante, anche se, non essendoci mogli tradite, anche quel ruolo non mi calzava veramente. E oggi, dopo tanti anni di carezze e di conoscenza, ora che la tempesta ormonale mi sta trascurando e il nostro rapporto è forse più profondo di parentela che di passione, ora sono davvero pronta a diventare moglie. Mi dimetto dall'esserne una virtuale, sempre vicina ma non riconosciuta e considerata. Mi dimetto da un'immagine di coppia che lascia sempre alla fuga la porta aperta. Ne scelgo una blindata, chiusa col lucchetto, la mia. Un avanzamento di carriera, insomma, uno scatto d'anzianità. O un premio di fedeltà, di più, un'assunzione a tempo indeterminato. Voglio il tuo nome. Ma quanti desideri stanno rinchiusi nella mia penna. Avrò mai il coraggio di spedirtela questa lettera? Davvero non avrei mai pensato di scriverla. Neppure io sapevo di aver dentro tanta rivoluzione. Beh, ora mi sono dimessa da questi decenni di stage. Ma tu, ti prego, quando lo leggerai, non licenziarmi. Giulia. Ma senti, io credo che sì che gliela devi dare questa lettera. E che la sprechi per mandarla a noi? È così spiritosa, così innamorata, così infinitamente gentile, così consapevole, e disegna una discrezione durata 30 anni. E l'invidia è tutta per lui che per tutto questo tempo ti ha avuto accanto. Certo, capisco che anche che hai paura di dargliela. È una confessione così delicata, un dono così fragrante, che se lui non dice sì di corsa, cadendo in ginocchio all'antica, galoppando a comprare le fedi, fra voi non potrà più essere come prima. È solo un gesto fra voi. Dovrebbe essere uno fra i 1000 gesti di questi 28 anni. Senti, non sono mai stata così favorevole a un matrimonio. Ammesso che lui sia degno di questa lettera, ammesso che lui sia degno di te. Guarda, e se ti dice di no, sarà fra voi anche non detta una rottura. E sarà peggio per lui, perché dove va lui senza la tua allegria? E l'altra lettera, firmata Hilda, ho inserito una lettera scritta alcuni giorni fa, che non invierò mai al mio ex. E questa mi ha molto impressionata. È rientrato nel mio spazio, uno spazio pronto a raccogliere amore. In questo spazio sei entrato con le tue pesanti catene, pregiudizi, paure, insoddisfazione. Con te hai portato dentro negatività, meschinità, grettezze e l'atteggiamento sospettoso che ti appartiene profondamente. Allo stesso tempo mi hai sedotto con le tue attenzioni, con le tue carezze. Col tempo, però, il piacere dei nostri corpi veniva oscurato dalle tue ombre. Più provavamo piacere, più avanzavano dentro di te i dubbi del tradimento. Raccoglievi indizi, scrutavi ogni cosa, interferivi su tutto ciò che mi riguardava e mi isolavi dal mondo esterno. Un giorno mi hai chiesto di darti un figlio, pur non vivendo con me. Rimanevi legato ai tuoi genitori, dormivi come un bimbo nella stanzetta a casa dei tuoi, a 41 anni. Io ho lasciato che il mio corpo accogliesse il tuo seme. Se fossi rimasta incinta, saresti venuta a vivere con me per costruire la nostra famiglia. Ma poi hai pensato bene di tirarti indietro, accusandomi di averti tradito, di essere una donna leggera, ipocrita e bugiarda. Mi hai proposto di essere la tua amante, di offrirti il mio corpo, che ti piaceva tantissimo a letto, di tanto in tanto. Fortunatamente non sono rimasta incinta. Ho pianto tanto, perché in nessun modo riuscivo a convincerti che lo spazio sacro che ti avevo aperto non poteva essere contaminato da nessun altro. Alla fine tutto è crollato. Io sola, tu lontano da me, nella stanzetta dei tuoi genitori, con la tua comitiva di 40-50 anni a passare il sabato sera in pizzeria e la domenica al cinema. Intanto arricchisco la mia vita con i viaggi, i libri, i colori, i silenzi. Ho ancora tanta voglia di ridere. Ho ancora tanta voglia di vivere. Beh, cara Hilda, ringrazia Dio. Adesso piangi, ma credo che da un momento all'altro, senza neanche volerlo, senza quasi accorgerti del passaggio, ti metterai a ridere, anzi a sghignazzare come un orango, battendoti il petto. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Mi sono liberata di questo nevrotico che mi avrebbe ridotto a uno straccio e che già un po' ti ci ha ridotto. Lui è il bambino dei suoi genitori e lo deve rimanere. Stanno così bene loro tre. Lui ha 41 anni che dorme nella culla. Loro due che gli rimboccano le coperte come il bue l'asinello e gli fiatano sul viso, senza più nessuna donnaccia che insidi questa perfetta felicità tombale. Lui in un primo tempo è rimasto attratto da te. Forse ti ha anche amata e aveva trasgredito le regole della tribù. Voleva addirittura un figlio con l'estranea. Però una parte di sé lo minacciava. Fidarsi di un'estranea, ma sei matto. Le donne sono tutte puttane meno sua madre. E visto che eri invece, per deluderlo, testardamente fedele, visto che davi al vostro congiungervi un senso sacro, come poi per chiunque voglia bene, allora parte la fantasia inquisitoria e si inventa dei tradimenti immaginari. Ti trova immonda, perché era lui che ti stava tradendo, che sentiva fortissimo il richiamo dell'ovile, sua madre che lo chiamava Belando, suo padre pure, la pecora, il caprone, sono le sue sirene, sono le sue amanti, la sua sola certezza. Ringrazia Dio se ci credi, e se no qualche divinità benigna che ti ha fatto sfuggire alle sue grinfie. Che ci avresti fatto tu in quel focolare per te? Non ci sarebbe stato posto, saresti sempre rimasta la nemica. Prima o poi ti avrebbero avvelenata con ragù i passatelli. Benedici, bacia la terra, rinasci, sei salva. Qui capitaneria di porto. Interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti, realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini, a cura di Gloria Guerrera. Расплата за ошибки, когда под ребра бьют, работа есть работа.